Pronto, don Andrea? Eccomi qua. Buonasera, don Andrea. Buonasera, buonasera a tutti. Siamo lietissimi di averti a Radio Mail. Mi pare che tu sei vicino alla residenza estiva del Papa, o sbaglio? Esattamente, sono abbastanza vicino, proprio in linea d'aria, al Papa, che infatti è qui da qualche giorno. Tu ti trovi? A Castel Gandolfo, proprio. Ah, sì. Proprio a Castel Gandolfo, sì, quindi sì, a pochi metri, diciamo, pochi del metri. Santo Padre. Esattamente, sì. E stai predicando ancora un corso, un ritiro per... Per gli aderenti dell'Opus Dei, se non sbaglio. È più che altro un corso di aggiornamento e studio, sì. Senti, scusami una curiosità. Sì. Che io so benissimo che tu hai scritto un libro sul Beato Escrivá. Sì. E con la prefazione del Cardinale Dionigi Tettamanzi. Sì. E mi pare che lui sia molto devoto a questo santo, vero? Ma io penso proprio di sì, nel senso che lui quando... perché questa è un'antologia... su un tema che al Beato José María Escrivá stava molto caro, che era la tematica proprio del cristiano come figlio di Dio, e Dio come padre, quindi la paternità di Dio vista proprio come elemento fondamentale della vita cristiana. E quando io l'ho pubblicato per l'editrice Marietti di Genova, e quando è stato proposto al Cardinale Tettamanzi di fare una piccola prefazione, l'ha accolto subito con molta gioia, sia per il tema sia anche per il Beato José María, ecco il messaggio che diffonde. Certo, è una spiritualità quella del Beato José María che piace molto al Cardinale Tettamanzi. Penso di sì, ha fatto anche qualche intervento pubblico, ricordo un articolo sulla stampa e appunto per presentare una biografia. Ecco, io conosco questi elementi, ecco, no? Quindi, benissimo, bene, sono contento. Senti, di cosa ci parli stasera, don Andrea? Ma come tu hai detto, effettivamente io continuo perché finché non mi dici che basta. No, avanti, sempre. Allora, sempre. Continuo prendo un brano del Vangelo che ci aiuti ad approfondire il sacramento della riconciliazione. Certo, questa sera pensavo di, proprio se io vado seguendo quelli che ho scelto per il mio libro, quel mio libro Più gioia in cielo, questa frase certo, di Gesù, certo. che effettivamente è un po' il cuore del libro, perché insomma, se noi capiamo che Gesù è contento lui, no? Cioè certo. Contento lui, è contento il cielo quando un peccatore si converte. Ecco, allora, ripetila tutta, sì. Si fa più gioia in cielo per un peccatore convertito che per 99 giusti che non hanno bisogno di conversione. Esattamente. Una cosa così precisa. Esattamente. Io nel titolo l'ho messa solo proprio più gioia in cielo, che colpisce molto. Certo, è il nucleo di tutta la frase. Esattamente. Poi il sottotitolo è incontrare Gesù e il suo perdono, ecco, delle paoline. Allora lì, dopo aver visto, ti dico, l'adultera, poi la donna peccatrice in casa di Simone il fariseo, oggi mi soffermerei sul paralitico. Benissimo. Sul paralitico. E inizia pure don Andrea. Va bene. Allora, l'episodio del paralitico, come anche gli altri episodi che ho commentato nelle puntate precedenti, è un episodio molto conosciuto dai lettori abituali del Vangelo. Lo narrano sia tutti e tre gli evangelisti sinottici, Matteo, Marco e Luca. C'è una particolarità che probabilmente è rimasta impressa a tutti quelli che l'hanno sentito leggere o l'hanno letto, e che raccontano San Marco e San Luca, che questi amici del paralitico, che sono i primi personaggi che noi troviamo in questo episodio dell'incontro di questo paralitico con Gesù, questi amici che addirittura San Marco specifica che erano quattro, quindi si vede che Pietro nella sua predicazione si ricordava bene proprio questi quattro personaggi. Questi quattro amici trovano difficoltà ad avvicinare il paralitico a Gesù perché c'è molta folla, e allora salgono su questo tetto abbastanza accessibile e lo aprono per far scendere il lettuccio con questo amico loro paralitico davanti a Gesù. E infatti, sapendo questo episodio che narrano Marco e Luca, è più facile capire che anche San Matteo dica, scrive così: ed ecco, gli portarono un paralitico steso su un letto, e Gesù, vista la loro fede, disse al paralitico: coraggio, figliolo, ti sono rimessi i tuoi peccati. Ecco, questo è un brano del Vangelo in cui appunto il perdono dei peccati è chiarissimo, esplicito da parte di Gesù e immediato rispetto ad altri brani che abbiamo già commentato, nei quali Gesù si avvicina poco a poco a questo culmine del perdono, è immediato e folgorante. E fra l'altro in questo brano ci colpisce molto, e io mi soffermerei all'inizio proprio su questo aspetto degli amici del paralitico, li chiamo così perché mi immagino proprio che siano degli amici, e perché Gesù, l'Evangelista dice, vista la loro fede, quindi mentre altre volte siamo stati abituati dal Signore che giustamente guarda la fede di colui al quale deve perdonare il peccato, in questo momento è vista la loro fede, tutti insieme, e in particolare forse proprio di questi amici che non si sono fermati di fronte alle difficoltà, e vista la loro fede. E questa particolarità ci fa capire che a Gesù interessa moltissimo la fede anche di coloro che sono gli amici di colui che ha bisogno di essere aiutato dalla grazia di Dio, di colui che ha bisogno di essere aiutato ad avvicinarsi di nuovo o per la prima volta al perdono che Dio concede, e o addirittura avvicinarsi alla fede per chi non è ancora battezzato o per chi ha perduto la fede, recuperare la fede che molto spesso la si può recuperare proprio grazie al sacramento del perdono. È impressionante capire, e questo a tutti noi che insomma anche in qualche modo cerchiamo di pregare, di stare vicini al Signore, la grande importanza che Gesù dà alla nostra azione e alla nostra fede. Quindi nessuno di noi è un individuo isolato nella vita degli uomini, nella vita del mondo e soprattutto nella vita di relazione con Dio, nella vita spirituale. Quindi esiste veramente la comunione dei santi, e che è una sorta di comunicazione spirituale, tutti noi siamo membra del corpo di Cristo, e quindi le membra vive, le membra che vivono nella grazia di Dio, che vivono nell'amicizia di Dio, veramente possono molto per inglobare in questo organismo soprannaturale anche coloro che membra vive ancora non sono, oppure sono membra vive ma soffrono qualche malattia spirituale, qualche debolezza, qualche fragilità. È molto bello e molto consolante scoprire che appunto possiamo essere tutti noi molto importanti, noi stessi possiamo essere molto aiutati dalla preghiera degli altri, dal buon esempio degli altri, dall'incoraggiamento degli altri. E Gesù in questa parabola, non è una parabola, cioè è una parabola vivente, insomma, in questo episodio così efficace, ci fa capire che la fede di quegli amici che, possiamo adesso ampliare l'episodio, pregano, incoraggiano il loro amico a tornare e addirittura a volte proprio lo portano in chiesa, lo portano a conoscere un sacerdote che lo può ascoltare. Ecco, la fede di quegli amici è molto importante perché quella persona, quell'amico, è diciamo così, quel paralitico nella vita spirituale, possa incontrare lo sguardo di Cristo che lo conosce, che lo penetra, che lo ama e che lo perdona. Ecco, io penso che anche questa valutazione così importante della fede di questi amici, che si capisce bene se si scopre che loro sono saliti sul tetto, l'hanno scoperchiato, era più facile che oggi naturalmente nelle case di allora, e hanno fatto scendere il loro amico con il lettuccio davanti a Gesù, ci fa capire che Gesù ama molto, apprezza molto la fede dei suoi figli quando è operativa, quando è una fede che non rimane nelle parole, non rimane diciamo nei buoni desideri, ma diventa azione, diventa operativa. I cristiani devono essere operativi in tantissimi campi, ma anche non solo, ma anche forse in questo campo che è uno dei più importanti, questo che il beato José María Escrivá amava definire l'apostolato dell'amicizia e della confidenza, quindi l'amico che conosce l'amico nel suo lavoro, nel vicinato, nel quartiere, attraverso le mille attività che una persona normale compie nella sua vita, le attività sociali, le attività anche di divertimento o di svago, o addirittura, mi viene in mente pensando al paralitico, addirittura a volte la malattia, a volte il compagno di stanza o di corsia in ospedale con cui ci si confida le difficoltà, ma anche si può aprire questa visione di speranza. Ecco, è molto importante che il cristiano sia operativo nella sua fede, no? Che la sua fede diventi vita, diventi azione, sapendo che il Signore veramente ci ha dato il dono grande della libertà, ci ha messo la nostra vita e anche la vita del mondo, in un certo senso, nelle nostre mani. Non dobbiamo essere, diciamo così, passivi, non dobbiamo essere fatalisti, non dobbiamo avere anche una fede che dice il Signore ci penserà. Sì, è vero, il Signore ci penserà, ma a volte ci penserà proprio attraverso di noi, attraverso il nostro zelo e il nostro affetto per le persone e per la società e per il mondo. Allora, dopo aver visto questi quattro amici così in gamba e così, anche se sono rimasti così anonimi nel racconto dell'Evangelista, guardiamo questo paralitico, questo paralitico che è il protagonista passivo del perdono del Signore, esteso su un letto, su un lettuccio, e come ho detto prima mi fa venire in mente appunto i malati, l'affetto di Gesù per i malati, l'affetto dei santi, tutti, l'affetto, ricordo senz'altro, io approfitto ogni tanto di raccontare qualche episodio della vita del Beato José María Escrivá, che ci serve anche da preparazione alla canonizzazione che avverrà a Roma il 6 ottobre prossimo, no? Del Beato José María Escrivá si racconta che veramente i primi anni della sua vita furono di intensissimo lavoro sacerdotale con i malati, soprattutto i malati più gravi, di quegli ospedali che radunavano a Madrid, i malati terminali, i malati incurabili di allora, che erano molte di più di adesso, perché molte malattie, per esempio la tubercolosi, non era curabile. E lui frequentava questi malati, li aiutava, li incoraggiava, li aiutava soprattutto ad offrire a Dio il loro dolore, e li considerava il tesoro della Chiesa e quindi anche il tesoro dell'Opus Dei, rendendosi conto che il Signore gli aveva chiesto questa grande opera senza confini di spazio né di tempo, no? Per aiutare tutti gli uomini in fondo a rendersi conto che Dio li vuole santi. Ecco, allora andava a cercare la fortezza e la preghiera e il dolore offerto insieme alla croce di Cristo da questi malati. Ecco perché, per esempio, mi viene in mente come il Papa, ecco, nel primo giorno del suo pontificato andò a trovare un amico malato, che poi è il Cardinal Descure, che era in un ospedale a Roma, aveva avuto un ictus, e io sono sicuro che appunto per lungo tutto il suo pontificato ha sempre chiesto l'aiuto, no, dei malati, no? E sono sicuro che appunto il Cardinal Martini, che termina oggi il suo ministero così lungo e così fecondo a Milano, il Cardinal Tettamanzi, che lo comincia, sicuramente si sono appoggiati e si vogliono appoggiare su questa preghiera dei malati, no? Però appunto il malato, ecco, io per esempio nel mio commento a questo episodio del paralitico ipotizzo, perché certo il Vangelo non ci racconta l'interiorità, l'intimità di questo malato, no? E ipotizzo, ecco, cerco di intravedere quale poteva essere la sua intimità, e dico così, ecco, questo malato aveva accettato che lo trasportassero da Gesù. E da quando era steso sul lettino, incapace di muoversi, era costretto ad accettare spesso e volentieri le iniziative degli amici, con la segreta speranza di una guarigione dalla malattia del corpo. La voce che questo maestro faceva guarigioni era arrivata fino a lui, ma non arrivava a sperare qualcosa di più profondo e invisibile che riguardasse il groppo che aveva dentro e che nessuno conosceva, i risentimenti profondi verso le persone care che lo trascuravano e verso Dio che permetteva quello stato deplorevole del suo corpo, e le ricerche illecite di risarcimento nascosto. Ecco, io penso che appunto a volte a chi soffre questa malattia del corpo può capitare, no? Può capitare una tentazione di questo tipo. Il Beato José María, che aveva molta esperienza di malati, in una delle sue meditazioni lo diceva, ecco, il malato a volte può avere questa tentazione di pensare che non lo curano bene, che non si occupano di lui, e quindi questo può allontanarlo da Dio, amareggiare l'ambiente o distruggere tutto questo tesoro di meriti che, per il bene di tutte le anime, di tutta la Chiesa, si ottiene quando si sopporta con gioia soprannaturale, con ottimismo soprannaturale, quando si ama il dolore. Lui aveva una del dolore una visione così, così vicina a quella di Gesù, no? Che arrivava appunto ai malati proprio sul punto di morte, lui si ricorda benissimo una malata con mille dolori e che aiutava a ripetere benedetto sia il dolore, amato sia il dolore, glorificato sia il dolore, ecco, come giaculatorie che l'aiutavano in quel momento proprio negli ultimi istanti della vita, e dopo tanti anni diceva: non ho cambiato parere, no? Questa è la mia liberazione, la liberazione, ecco, quindi da una visione umana, no? del dolore invece verso una visione cristiana, no? Molto unita alla croce del Signore. E allora è molto bello vedere San Matteo che accenna nelle parole di Gesù quel coraggio, coraggio figlio mio, coraggio figliolo, ti sono rimessi i tuoi peccati, no? Quindi Gesù arriva a dare questo incoraggiamento. E, certo, per il paralitico è una sorpresa, perché era andato lì e gli amici anche non si aspettavano una cosa di questo tipo, e loro si aspettavano una guarigione, che fosse guarito dalla malattia. Invece Gesù sorprende, scompiglia i loro piani, e è notevole vedere che non è lui che protesta e neanche i suoi amici, perché avevano fede, quindi erano pronti ad accogliere questo salto, questo cambiamento di piano. Se credevano che Gesù poteva guarirli, erano pronti a capire che Gesù poteva fare anche qualcosa di molto più profondo e molto più importante. E io ipotizzo anche nel commentare questo brano del Vangelo che lo stesso paralitico immediatamente, istantaneamente, ha sentito dentro di sé gli effetti di questo dono soprannaturale della grazia, di questo dono del perdono, per cui si è sentito capito, conosciuto in modo molto profondo e perdonato, e si è sentito sciolto interiormente da tutta una serie di legami, di groppi, di rancori, di invidie, di malumori. E allora lui non protesta, e i suoi amici rimangono molto stupiti, ma aspettano di vedere che succede. E invece quelli che protestano sono gli scribi. Gli scribi pensano male nel loro cuore e dicono: ma come? Qui solo Dio può perdonare i peccati, chi è costui che dice, sta bestemmiando addirittura? E Gesù, che conosce il loro pensiero, interviene e dice: perché pensate male nel vostro cuore? È più facile dire sono perdonati i tuoi peccati o dire alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina. Ecco, allora, se noi ricordiamo anche quell'episodio del cieco nato raccontato da San Giovanni, ci ricordiamo che in quell'epoca, sbagliando, Gesù cerca di aiutarli, di correggerli e dire non ha peccato né lui né i suoi genitori, no? Pensavano che ci fosse una relazione diretta tra il peccato personale e le malattie che uno soffriva. Noi invece sappiamo, aiutati da Gesù e anche dalla sua croce, lui è l'innocente che soffre i dolori più grandi, che non c'è una relazione diretta tra il peccato che uno soffre, che uno commette, e le sofferenze che poi gli tocca di vivere. Anzi, la sofferenza può essere una benedizione, può essere un modo di unirsi alla croce di Gesù, può essere una predilezione del Padre che ci considera suoi figli. Però è vero che c'è una relazione profonda, ampia, vasta, perché la sofferenza è una delle strade che il Signore ha scelto, quella principale direi, restaurare l'ordine distrutto, rovinato dal peccato. Ecco, allora proprio per quegli scribi che avevano questa relazione, pensavano che quel paralitico fosse così perché aveva peccato molto, allora per loro è molto importante quello che accade dopo, e Gesù veramente con quella guarigione fa capire che se lui può togliere quella che per loro era la conseguenza del peccato, la malattia, allora a maggior ragione può togliere la causa, che è il peccato. E anche a noi serve molto, effettivamente, forse ci aiuta a capire anche altri miracoli del Signore. In fondo Gesù ci dà una chiave di interpretazione per quel miracolo, ma anche per molti altri, e anche, possiamo aggiungere, ci dà forse l'interpretazione per i miracoli che avvengono oggi, per esempio i miracoli che vengono riconosciuti dalla Chiesa per l'intercessione di un santo, di un beato, per potergli dare appunto questo riconoscimento, sono senz'altro frutto della compassione del Signore per una certa situazione, una guarigione, e sono frutto della fede di chi ha pregato, ma sono anche un elemento esterno che il Signore ci dà per farci capire che i miracoli spirituali, il cambiamento dentro che avviene durante i sacramenti, in modo particolare per quello che stiamo commentando adesso nel sacramento della penitenza, è una realtà analoga a quella che può avvenire appunto quando un paralitico recupera la capacità di camminare, la forza nelle gambe, la capacità di saltare, di correre e di tornare a casa sua e di riprendere una vita normale. Quindi noi dobbiamo guardare, cercare con l'immaginazione di guardare questo paralitico che non può muoversi e che improvvisamente si alza, e addirittura Gesù gli dice: prendi pure il tuo lettuccio, che significa portati via anche quello che può essere un segno esterno della tua malattia, cioè hai cancellato veramente tutto, portati via anche questo lettuccio e torna a casa tua, cioè rientra nella normalità della tua vita, dei tuoi rapporti precedenti. Ecco, questo avviene quando noi chiediamo perdono al Signore nella confessione, cioè avviene nella nostra anima un cambiamento che è simile al cambiamento che avviene quando un paralitico recupera la capacità di camminare, la capacità addirittura di camminare, e possiamo dire di volare in alto, di saltare in alto e di raggiungere quella asticella alta, quella meta della santità che il Papa ha messo a tutti i cristiani, no? La meta della santità alta deve essere per tutti. Allora, questa diventa per noi come il sacramento della penitenza o della confessione, diventa per noi come l'asta con cui saltare in alto, la pertica che ci permette di superare tutti gli ostacoli. Certo. Ecco, Don Tino. Sì, benissimo, è stata una lezione meravigliosa. Hai tirato fuori delle cose che io non mai avrei immaginato, da questo episodio del Vangelo così importante, che ci hai mostrato così importante. Sì, ecco, bene, fa piacere, dai. No, perché questo metodo di parlare della confessione attraverso i vari episodi del Vangelo, secondo me è il metodo più indovinato, proprio lì si va alla linfa vitale, si va alle basi, Si va proprio alla radice, perché radice, allora così certo. È importante per noi vedere che incontriamo Gesù così come il paralitico lo ha incontrato, nella confessione. E questo veramente, io penso che sia un po' la scuola del beato José María Escrivá, vero? Questo? Sicuramente sì, guarda, lui veramente usava moltissimo il Vangelo, il Vangelo proprio predicato così, meditato, sviscerato, e poi applicato, attualizzato, veramente applicato alla nostra vita di oggi. Sì, perché certe volte sentire certi discorsi sulla confessione completamente, insomma, allontani dal Vangelo, dico, ma qui così, dove navighiamo nel vago. Si rischia di, sì, esattamente. Senti, allora adesso dacci una bella benedizione a Don Andrea, proprio perché noi possiamo sempre più amare questo sacramento, proprio come grande dono dell'amore di Dio. Benissimo, Don Tino, allora a te e a tutti coloro che ascoltano, e vi do la benedizione di un povero sacerdote, però pensando che qui vicino c'è il Papa, sono sicuro che certo, il Papa benedice tutti. Benissimo, no? certo. Perché dopo andrò lì, magari quando sarà domenica, l'Angelus, quindi penserò anche a tutti voi. Anche a noi, domenica prossima, mi raccomando. Senz'altro. Allora, la benedizione di Onnipotente Padre, Figlio e Spirito Santo discende su di voi e con voi rimane. Grazie.